Allora, oggi è l'11, no? Di gennaio, del 2011. Sono qui con Chiara e con Giorgio. Giorgio è appena venuto dalla Germania, no, anzi dalla montagna, perché prima era in Germania, dove lui lavora in un teatro come attore e come regista, teatro che si chiama? E Oikitea. che vuol dire Oikitea? Allora, Oikitea vuol dire Europäische, cioè Kinder- und Jugendtheater. Tradotto in italiano si scrive EU, ma si pronuncia OI. Tradotto in italiano vuol dire teatro europeo per bambini e ragazze. Sì, e prima hai detto che questo teatro dove tu lavori vuole essere un ponte tra teatro e la spiritualità. Questo è il direttore del teatro che propone. Questo sì, è un po' la ricerca che mi ha spinto anche ad andare lì a lavorare lì con loro. E sì, diciamo che è un po' una missione quella che stiamo facendo. La missione è quella di portare, ci rivolgiamo ai bambini e ai ragazzi, facciamo teatro, un teatro. In Germania viene definito teatro prevenzione, cioè lavoriamo su delle tematiche molto vicine ai ragazzi e li aiutiamo, diciamo, a vedere le cose in maniera positiva, in Sì. maniera Mi che possa. puoi fare qualche esempio di Guarda, tematica? sì, tematiche, diciamo, il cavallo di battaglia del nostro teatro. È uno spettacolo che si chiama Mein Körper ist mein Freund, che vuol dire il mio corpo è il mio amico, e che è rivolto a bambini delle elementari, prime classi delle elementari, ed è sulla violenza sessuale subita dai bambini, cioè il saper dire no, saper distinguere da un adulto, quando un adulto ti tocca per altri fini e quindi c'è questo spettacolo che è rivolto appunto ai bambini piccoli ed è la storia di questo qua. Vi faccio vedere un volantino. Mein Körper Ist ist mein Freund, il mein mio corpo è il amico. mio amico. E dice no, quindi analizza episodi molto semplici, c'è l'episodio che c'è la bambina a casa da sola che apre la porta perché quell'altro gli promette le caramelle o cose molto storie che abbiamo già sentito, ma però molto pratiche e che danno proprio aiutano il bambino alla Ad essere consapevolezza consapevole, consapevole di poter dire stop. Questo è uno degli è uno esempi. degli esempi. L'altro esempio che mi riguarda più da vicino con uno spettacolo che ho fatto io come attore è sulla prevenzione all'alcol e alla droga. E lì la domanda che ci siamo fatti è stato cosa possiamo comunicare come prevenzione. Cioè, non ci va. Lo scopo del teatro non è andare in giro a dire no, questo non si fa, questo si fa, questo non si fa, perché non. L'idea è stata quella, ok, cerchiamo di capire dentro di noi qual è, cioè il punto anche per noi, che problemi ci sono con l'alcol o con la droga. Il punto è centrarsi e capire quali sono i tuoi limiti, quali sono le tue. Sì, il tuo limite è saper dire di no a quello che ti fa bene e quello che non ti fa bene. Per cui abbiamo creato questo spettacolo che è un'avventura. Sono un'avventura di un ragazzo e di una ragazza che si chiama Lebensquelle Lebensquelle vuol dire sorgente di vita. E questi due ragazzi sono in viaggio verso la sorgente di vita. Scoprono che hanno problemi con i genitori, con la scuola e dicono cosa facciamo? Ah, non hai mai sentito parlare di questa Lebensquelle dove si può star bene? E partono per questa avventura e ognuno dei due poi si separano, ognuno dei due ha delle prove, supera delle prove e sono prove. Per cui saper dire di no, saper affrontare le proprie paure e attraverso anche saper affrontare i propri limiti. E quindi c'è questa. Quindi è un teatro che, da quello che stiamo dicendo, vuole non vuole essere un telato didascalico, ma vuole che quello che si fa, quello che non si fa, anche perché di solito questo non serve a nulla. Mm-hmm. Quello che invece voi state facendo è sviluppare la consapevolezza umana, esatto, il pensiero libero. Poi pensare che significa? Pensare significa, viene da pesare, soppesare, significa soppesare per mettere le cose nel loro posto, mm-hmm, quindi per discernere, quindi non posso mettere la droga, l'alcol nella casella cose che mi fanno bene e neppure cose che posso utilizzare per tirarmi su di morale, ecco. Certo, chi vende queste sostanze ne trae vantaggio, questo è la ragione per cui poi è difficile liberare il mondo. Ok, quindi è un teatro che tu sviluppa la consapevolezza, è un teatro ponte tra l'attività teatrale, che ha come scopo lo sviluppo della spiritualità, che poi è consapevolezza. Bene, e quindi da qui l'incontro con Aleph, no? Tu hai fatto il percorso Aleph, hai visto, cioè, anzi tu eri già nel percorso Aleph prima di entrare in teatro. Anzi, diciamo che il percorso Aleph mi ha aiutato a trovare un posto del genere. Nel senso, trovare un posto del genere. Perché posto dove comunque c'è un sangha molto forte. Esatto, un sangha, c'è cioè un gruppo di nobili amici che siamo un po', cioè la filosofia è che siamo strumenti noi, siamo strumenti per fare qualcosa, mettiamo a disposizione il nostro sapere, no, le nostre capacità per portare avanti questo discorso rispetto a, diciamo, migliorare il mondo attraverso il teatro, attraverso appunto la comunicazione, rendere consapevoli i ragazzi, questo è il nostro punto principale. Poi, bene, quindi adesso siamo qui a Camogli in queste giornate, passeremo insieme per creare uno spettacolo, almeno in collaborazione, speriamo, con quel teatro in cui lavori tu. Uno spettacolo che sia rivolto sia alle scuole, ma poi più in generale a tutti gli esseri umani, perché oggi non sono i giovani a non avere consapevolezza, sono tutti gli esseri umani a essere in uno stato di insufficiente consapevolezza per poter continuare, non dico a vivere bene, ma addirittura a sopravvivere su questa terra. Ci troviamo in un periodo in cui l'emergenza del clima, l'emergenza della sovrappopolazione, l'emergenza dell'inquinamento, cioè stanno attanagliando le nostre vite. Questa dei giovani è la prima generazione in cui si vede un futuro peggiore di quello che c'è stato fino adesso, cioè stiamo aspettando tempi assai peggiori. Il compito di un approccio spirituale è quello di invertire la rotta, cioè di far vedere che i tempi che ci aspettano sono assai migliori di quelli che ci sono stati fino ad oggi, ma non di un po', ma veramente in modo radicale. Oggi le neuroscienze ci stanno chiarendo che noi come esseri umani non abbiamo completato il nostro sviluppo, che è previsto dalla nostra fisiologia, dalla nostra anatomia. Il cervello del cuore che possediamo tutti non viene quasi mai utilizzato. Il cervello del cuore è il direttore d'orchestra, che se sale sul podio l'orchestra può davvero suonare, può creare musica, altrimenti gli vari strumentisti suonano ognuno per conto suo, che è quello che, salvo qualche raro momento, oppure si uniscono in modo molto superficiale. Quindi quello che poi è uno dei valori dell'essere umano, l'integrità, essere integrità, cosa vuol dire? Prendo pane integrale, riso integrale, che vuol dire? Che è totale, che è tutto il riso, non viene buttato niente via del riso. Allora un uomo è integro quando è totale, ma per essere totale bisogna che la sua anima si esprima nel mondo. Se non si esprime la sua anima è un uomo, come dire, raffinato, lo zucchero raffinato, il pane bianco, non integrale. Quindi oggi abbiamo una comprensione del fenomeno uomo che tempi addietro c'era già, e ovviamente nelle antiche tradizioni sapienziali c'era già tutto, ma oggi non c'è ancora un linguaggio in cui queste ovvie evidenze possano essere trasferite a tutti, perché non è importante che ci siano un numero limitato di persone che comprendano queste cose, ora ci troviamo di fronte a un'emergenza che può essere risolta soltanto se questo livello di consapevolezza viene esteso a tutte le persone sul pianeta, almeno una maggioranza schiacciante tale per cui, anziché ricorrere agli strumenti della lotta, della violenza, della sopraffazione, della guerra, si ricorra agli strumenti dell'amore, dell'armonia, della creatività, proprio in questi giorni, 2 giorni fa, siamo stati da una mistica italiana che si chiama Angela Volpini, che ci ha parlato della sua esperienza, della rivelazione che ha avuto diretta nella sua vita di una essere femminile che si è presentato come, quando lei era piccola, come ha avuto proprio un'apparizione, ma concreta, sensorialmente basata, è stata sollevata da questa persona, gli ha parlato, gli ha comunicato delle cose. Questa persona si è presentata come l'umanità realizzata, cioè come il simbolo dell'umanità realizzata. E le cose che questa donna ha, questo è accaduto 63 anni fa, quando lei aveva 7 anni, questa donna che ha ricevuto questa diretta presa diretta con lo spirito umano, con questa manifestazione, per 63 anni ha lavorato per diffondere questa concezione. La concezione che ha ricevuto è molto semplice, è essere davvero se stessi, cioè realizzare chi siamo. Se siamo un abete dobbiamo fare l'abete, se siamo una vigna dobbiamo fare la vigna, siamo un flauto, suoniamo un flauto, siamo un violino, violino. E non seguiamo quello che ci viene detto da fuori, in modo da che c'è tutto quello che ci allontana da noi stessi. Ora, la problematica è molto grossa, perché normalmente siamo educati in contesti in cui impariamo ad essere amati in modo condizionato, cioè se obbediamo a certe aspettative. Ma spesso queste aspettative non corrispondono a chi siamo noi. E quindi per poter mantenere l'appartenenza, per poter ricevere, tra virgolette, l'amore, noi tradiamo noi stessi, non siamo, non ci realizziamo per quello che siamo. Questo è il primo passaggio. Il secondo passaggio, dice la Angela Volpini, è quello di decidere di praticare l'amore, non più, non il potere, mai, in nessun caso. Per lei il divino è questo, è lo spirito che decide di non praticare mai più potere, in nessun caso. Purtroppo il divino, così come è stato visto in varie tradizioni, invece è un divino onnipotente che può fare l'uomo quello che vuole, ecco, la giustizia punitiva, tutte queste cose. Bene, lei dice che questo tipo di visione è la visione degli uomini che hanno scelto la via del potere e che serve a imporla agli altri. In questo caso la religione diventa oppio dei popoli. Bene, queste convergenze adesso noi le sentiamo in ogni settore. Abbiamo parlato qualche tempo fa con Carlo Sini, quindi un filosofo italiano tra i più noti e più competenti e più illuminati, e abbiamo trovato una fortissima convergenza tra il suo pensiero e il pensiero di Aleph. Oggi sediamo qua intorno e parliamo di l'altro giorno di spiritualità con una mistica, oggi parliamo di teatro con te e troviamo i fondamentali, le linee fondamentali sempre ribadite e rinforzate. Che sono le stesse. Allora, se questo avviene in tutti i settori della nostra vita, nel teatro, nella musica, per esempio, abbiamo avuto in uno dei nostri corsi un violinista concertista che insegna una scuola di specializzazione per violino in Sud America, in Uruguay mi sembra, il quale ha creato una scuola di violino così come tu mi parli del teatro, cioè in cui i violinisti, anziché diventare le prime donne, diventano persone che sanno collaborare tra loro, che per violinisti è quasi difficile come per i pianisti. E quindi nella musica, nel teatro, nell'arte, nella filosofia, nella spiritualità troviamo gli stessi vettori che cercano di unirsi in questo inizio di secolo, che è decisivo per l'umanità, perché qui ci troviamo di fronte a una svolta. O svoltiamo dalla parte giusta o ci autoannientiamo o creiamo un mondo praticamente invivibile. E quindi adesso vediamo cosa possiamo fare per creare uno spettacolo, l'idea nostra, no? Di tutti noi per cui siamo qui, tu, Chiara, hai preso un anno di aspettative per dedicarti a questo, cioè questo è quello che la tua anima ha chiesto. Dentro la scuola la tua anima urlava di sofferenza, di dolore. Io ho sentito il dolore qua, anche se non c'erano tutte le condizioni, quando ci siamo visti ci avremmo dovuto rifletterci un po' di più per creare meglio una collaborazione così, ma io ho sentito questo, che qui c'era un'urgenza e che tu eri pronta, che dovevi dare la svolta alla tua vita. E per questo sei qui, e per questo adesso ti stai unendo a noi in questo progetto, e questo progetto ha dietro persone che, come te, hanno già trovato una strada di realizzazione, e come Chiara, che la sta cercando con molta intensità da tanti anni. E non è facile per chi ha questa tensione spirituale indirizzarla bene. No, no, certo. E se questa tensione non viene indirizzata bene, si rivolta contro la persona stessa, cioè diventa... Per cui è vero, no? No, modo più tale. Crea un danno terribile. Cioè la persona si viene... Cioè, infatti, il risveglio spirituale, da un certo punto di vista, può essere inizialmente una tragedia. Cioè viene, si vive molto peggio di chi non lo ha. Perché ti richiede una trasformazione di vita. E siccome siamo pieni di paure nel farla, non siamo pronti a disfarci di tutto, disfarci dei presupposti, dei pregiudizi su noi stessi, sugli altri, viviamo un periodo di transito che è tremendo, è una terra di nessuno, dove queste forze, quello che viviamo, sembrano forme nevrotiche, sembrano disturbi della personalità e così via. Ma spesso non sono altro che il tentativo forte di un'anima di dire alla personalità: guarda che io sono qui, segui me, non seguire quello che c'è intorno. E allora sì che la persona guarisce, altrimenti zoppica tutta la vita. Ecco. Ecco. È la ricerca dell'integrità. La ricerca di chi siamo davvero. E quella, amare se stessi, vuol dire esprimere nel mondo chi siamo, dirlo con chiarezza. Il potere fa l'opposto, cerca di toglierci da questa consapevolezza. Il potere, che si è intriso di narcisismo, cosa fa? Taglia le ali. Quando si comincia a crescere un po' da bambini, vengono tagliate le ali. Iniziano in famiglia, si inizia questa cosa, poi viene completata dalla scuola, viene portata avanti dalla scuola, poi delle varie altre formazioni che riceviamo. E se non siamo molto, molto fortunati, che non incontriamo qualcuno sulla strada, ci fa vedere le cose in altro modo, praticamente siamo dentro questo imbroglio qui, non ne usciamo più, e a nostra volta lo riproduciamo, creiamo famiglie in cui si riproduce questo e attività nel mondo in cui si riproduce questa stessa cosa. Stavi parlando dell'ultimo spettacolo, che è Goodbye North Pole. Goodbye North Pole, che è uno spettacolo che tra le altre cose è diventato progetto UNESCO di quest'anno per la Germania. E abbiamo vinto anche un premio adesso di sostenibilità ed è uno spettacolo molto divertente, che parla di cose tragiche in realtà, che è la tragedia del riscaldamento globale, dell'effetto serra, dell'Amazzonia che viene tagliata via. C'è una scena sull'Amazzonia, una scena sullo scioglimento dei ghiacci. Ci sono questo professore con la sua assistente al Polo Nord che sono lì, e il professore continua a sostenere che il ghiaccio è bello solido, e l'altra gli dice: ma guarda che si sta rompendo qui. No, ma è bello finché non sprofondano tutte e due. Intanto raccontano di cos'è l'effetto serra e di queste cose. Poi, e finisce lo spettacolo con questo, che è un po' l'immagine che tu avevi di questo uomo che col fiore. E non so se la conoscete questa storia, che è una storia meravigliosa di questo uomo che nel sud della Francia piantava gli alberi. La conosci questa storia? Forse sì, ma non me la ricordo. E quest'uomo, semplicemente un giornalista, è passato di lì negli anni 50, ha detto: ma lei cosa fa qua? E io pianto alberi. E ogni giorno piantava 100 alberi alla mattina e 100 alberi al pomeriggio. L'ha fatto per 30 anni e ha cambiato un'intera regione, da una terra arida in una terra dove adesso c'è l'acqua, ci sono le piante, ed è un esempio meraviglioso di quanto una persona possa fare. Cioè, il discorso è: cosa possiamo fare noi, sia a livello per la nostra terra, sia proprio praticamente, ma anche per noi stessi. Cioè, qual è il nostro albero da piantare? Questo per me, questo simbolo è bellissimo. La mia domanda è: qual è il mio albero? Quali sono gli alberi che posso piantare io? E per me da questo nasce il Sangana, nasce l'idea di creare un ponte tra Oikitea e Aleph, per me, perché è importantissimo che forze che parlano la stessa lingua, anche se sono di nazioni diverse, si uniscano insieme in questo momento per migliorare la situazione. Stamattina a colazione stavamo parlando così, brainstorming di come poteva essere rappresentata la situazione di adesso, no? In cui le forze distruttive sono infinitamente più grandi di quelle costruttive, almeno dal punto di vista materiale sono incommensurabili. Su mille alberi che vengono piantati in Amazzonia, ci sono quelli che li piantano, ne vengono bruciati 100.000 o anche forse 1 milione, insomma, quindi il numero, la sproporzione è immensa. Però è anche vero che il salto può essere un salto quantico, no? Così come un elettrone per passare da un'orbita più ristretta a un'orbita più allargata ci mette tempo, deve acquisire energia, a un certo punto questa energia si comprime al punto che riesce a fare il salto, e avviene in un secondo, ma la preparazione, un attimo, frazione, ma la preparazione è lunga. Quello che anche Jung chiamava principio di enantiodromia, cioè prima la compressione della molla, fino a che la molla non raggiunge un tale stato di tensione che enantiodromia, cioè la corsa al contrario. Cioè prima, adesso siamo andati verso il materialismo, la spiritualità è stata compressa al massimo, adesso la spiritualità ci dobbiamo aspettare che prenda piede, non la spiritualità gestita dal potere, ma la spiritualità autentica, la vera spiritualità che è per tutti e non esclude mai nessuno, ecco, e che è una spiritualità che non riguarda solo il genere umano come privilegiato, ma tutti gli esseri, e comprese le piante, comprese i minerali, tutto. Quindi la vita umana, se la vedi come sviluppo di coscienza, non c'è dubbio che la coscienza sta crescendo. Purtroppo, come dicevamo, lo sviluppo materiale è più veloce, la crescita della tecnologia non è una tecnologia spirituale, è una tecnologia materialista, e quindi quella è molto veloce. È anche vero che le carte non sono ancora da giocare, quindi noi siamo qui per generare questa nuova cosa. Una delle idee che ci è venuta era di far vedere appunto come attraverso film, magari anche filmati drammatici, come vedere l'Africa dall'alto, come è distrutta, che cosa succede nelle varie regioni del mondo dal punto di vista climatico, dal punto di vista delle condizioni di lavoro, delle condizioni dei bambini, delle condizioni delle scuole, la fame nel mondo, la distruzione, l'estinzione delle specie animali, cioè in India mi sembra che siano ormai 3.000 tigri, tutto, mentre ci sono 1.300.000.000 di esseri umani, e ancora quelle 3.000 tigri sono a rischio di essere uccisi ogni giorno. Ci siamo una specie infestante, veramente dal punto di vista... Cramigna proprio. Ecco, allora far vedere in uno spettacolo come queste forze materiali, meccaniciste, che si basano solo su ciò che si tocca, si vede, si sente, non hanno la capacità di vedere in profondità la realtà, stanno prendendo il sopravvento, ma che c'è qualcuno, e da sempre c'è stato un certo numero di persone, poche a volte di più, che hanno sempre lavorato per mantenere questo filo d'oro della consapevolezza che è arrivato oggi, fino a oggi, e quindi per esempio far vedere in queste scene come una persona coltivi un piccolo giardino come simbolo della rinascita umana e che questo giardino venga distrutto ogni volta dalle forze più terribili, ma che la persona non smette, va avanti, e quando proprio sta perdendo ogni speranza e quindi o si abbatte e si rinuncia oppure sta per imbracciare la via della violenza, sente un canto dentro di sé, il canto dell'anima che lo riporta sulla strada. Ecco, l'idea era quella appunto di creare delle situazioni di forte impatto emozionale dove quindi c'è una compressione della molla e dove poi il finale, quello via via il finale che si prepara, è un finale che viene generato non dalla forza, ma dalla profondità di un messaggio. Quindi sappiamo che le forze materiali urlano, strepitano, infatti ormai ci rumora dappertutto, mentre le forze spirituali sussurrano, e far vedere come un sussurro alla fine vinca sul frastuono delle bombe atomiche. Ecco, poter postare ai giovani e a tutti gli esseri viventi questo messaggio è un messaggio che sarebbe utile a sciogliere il nichilismo oggi imperante, che è nei giovani, per i quali non vedono più futuro, non c'è più niente da vedere. E anche gli insegnanti non lo vedono più perché vivono una situazione drammatica. Voglio dire, sottolineare che ci sono degli eroi del nostro mondo, insegnanti, operatori di comunità, educatori, tutti quelli che fanno il lavoro nel sociale, sono eroi perché vengono messi in condizioni terribili e retribuiti malissimo. messi in condizioni terribili, in cui poi la loro tendenza è il burnout alla fine, perché non possono che esplodere, ma non hanno neanche i soldi per curarsi. Per cui la società praticamente si avvale di queste persone che prendono su di sé lo stress, mentre altri possono godersi i soldi che si fanno, cioè il potere, in luoghi privilegiati. Certo. Questa è la politica, alla fine la politica è questa. Parlavamo con un operatore di comunità, il quale viene pagato in Venezia, ma che rischiava la pelle tutti i santi giorni, e rischiava la salute mentale, tutto quanto. E quindi, non perché di per sé una comunità sarebbe difficile da costruire, si può fare benissimo, ma ci vogliono dei mezzi, e i mezzi per le comunità non ci sono mai. Non essendoci mezzi, gli operatori devono metterci come mezzi il loro sangue, devono essere sacrificati. Sull'altare di che cosa? Del profitto, sempre lo stesso, cioè che alcuni possano godersi dei soldi che non hanno guadagnato. Ecco, perché mentre un notaio per guadagnare 1.000 euro ci mette un'ora, un operatore di comunità ci mette un mese. Il notaio non rischia nulla, l'operatore di comunità rischia la pelle. Questo è un po' il messaggio che vorremmo dare con il nostro incontro. Cioè, in qualche modo dovremmo diventare come teoria, non possiamo accontentarci di essere persone che parlano così, che diventiamo in qualche modo, abbiamo forza profetica. Cioè, a me quello che ha ispirato molto, parlando anche prima nel nostro brainstorm, appunto, tu hai parlato di Angela Volpini, e che lei dice che il divino sta nel... quando viene rotta la dinamica del potere, quindi viene riconnesso l'uomo alla sua coscienza. E secondo me, a livello proprio teatrale, d'immagine, sarebbe proprio bello partire dal macrocosmo, quindi dal mondo, facendo vedere questa dinamica di potere con queste scene forti che tu dici, scene con un forte impatto emotivo, e che siano prima macrocosmo, microcosmo, fino ad arrivare all'interiorità delle persone, e vedere come poi si può fare il percorso contrario, partendo dall'interno per ricambiare fuori. Partendo come simbolo da questo personaggio meraviglioso che sente questo canto dell'anima e ritrasformi. Secondo me questo potrebbe essere la struttura, la traccia dello spettacolo. Poi a livello tecnico, a livello, cioè, ci si può mettere dentro di tutto, si può, tecniche teatrali. Possiamo sviluppare, sbizzarrire la nostra creatività, insomma, questo è. Bene. Vorrei che in questo spettacolo venissero coinvolte più situazioni possibili, in modo che appaia un po' tutti. Per esempio, le dinamiche di coppia oggi sono chiarissime, se si sanno leggere, altrimenti le coppie vivono una situazione drammatica, proprio non stanno nell'amore, stanno nel potere, e conseguentemente l'amore non può fiorire. Però credono di amare, non è vero, l'amore è tutta un'altra cosa. E quindi il linguaggio oggi è corrotto, cioè il linguaggio non è più il linguaggio, è il linguaggio del potere, che quindi quello che comunica non è vero. Il potere è caratterizzato da falsità, insomma, non c'è potere senza falsità, né falsità del linguaggio. Nel momento che noi siamo separati da noi stessi, le parole che diciamo sono parole false, non c'è più niente di vero. Ti amo. Ti amo, che vuol dire? Vuol dire sì, sì. Ecco, questo è abbiamo davanti una cosa. Ecco, a questo discorso dell'autocreazione, del noi che, cioè, questa visione della Angela Volpini, questa la mistica che dice: ma Dio ha creato un uomo, nella sua visione, che può scegliere tra il potere e l'amore. Quindi Dio a un certo punto si è reso impotente di fronte all'uomo, perché la sua creazione di amore possa andare avanti, ha bisogno della collaborazione dell'uomo. Quindi pensa che responsabilità abbiamo, vista così. Non è che possiamo andare da Dio, dammi un aiuto, ma sei tu che devi aiutare, mettendo l'amore al posto del potere. Perché Dio non è quello del Vecchio Testamento, che impone, giudica, ancora oggi visto così, anche se in modo attenuato, però poi alla fine è così. Io sono indegno, tu fai tutto, basta una sola parola, io sarò salvato. E invece Dio non può far niente, perché ti ha creato libero. E sei tu, come essere umano, che puoi generare il divino. E quindi la creazione, una collaborazione tra l'uomo e il divino. E quindi anche il discorso, questa figura che Angela Volpini vedeva, ha visto, e l'ha vista per una tantina di volte, quindi era, cosa simboleggiava la Maria, Maria la madre di Gesù, la quale ha sentito questa esigenza dell'anima così forte da prendere una decisione irrevocabile, totale, integra. E da lì nasce quindi l'uomo che si fa Dio, cioè Gesù. Gesù è l'uomo che diventa Dio. Il messaggio di Angela è che questo è di tutti e non abbiamo bisogno di mediatori, perché è già dentro di noi, e i mediatori non sono altro che coloro che hanno abbracciato il potere e cercano di utilizzare questa cosa. E il Dio che i mediatori creano è un Dio che domina, ci dice, va, e loro sono gli intermediari. Ecco, questo dice il sacerdote della Chiesa cattolica, come tutti gli altri, ma tutti gli altri settori, ma dappertutto, è ovunque così. Cioè l'uomo si impadronisce del messaggio mistico, che è un messaggio d'amore, e lo trasforma in un messaggio di potere. Punto. Più o meno la storia è questa qua. Allora, come noi possiamo ritornare a noi stessi? E lì, cari, quando una persona ritorna a essere se stessa, si commuove da solo dalla grandezza dell'anima e dell'anima delle persone che ha intorno. E riuscire a portare nelle scuole questo messaggio, come d'altra parte Alef ha già fatto questo lavoro su Ubuntu, ha portato a scuola due volte questa, non era uno spettacolo, ma era un corso di 5-6 giornate con tante persone diverse che facevano la musica, arti visive, formazione, vari tipi. E alla fine il risultato finale è che questi ragazzi scoprivano chi erano, almeno per una settimana. Ecco, hanno scoperto che c'è un modo di vivere nel mondo completamente diverso da quello assurdo, psicotico, gravemente patologico che viene consentito da una società di adulti che è impazzita. Che quindi il tradimento che i giovani ricevono dagli adulti non è quello della famiglia, quello è il tradimento, vabbè, c'è un po' tutti, ma è quello dopo, che è tremendo. Perché se uno vivesse in una famiglia e riceveva i tradimenti, poi la società però è una società sana, bene o male quelli si assorbirebbero. Invece quello che si riceve in famiglia, spesse volte, è una piccola parte di quello che poi uno riceve in modo continuo in tutti gli ambienti dove finisce, dove il potere domina sull'amore in modo netto. Ecco, allora creare luoghi dove teatro, musica, arte, filosofia, scienza, dove invece l'amore è il centro, questa è la buona novella di oggi, si può fare, si può. E lì c'è grande potere, cioè io per quello che posso vedere anche come psicoterapeuta, quando tocchiamo questi temi, la persona che è accanto diventa una persona di luce in quel momento lì, con una forza infinita, mentre normalmente siamo delle mezze persone, anzi, ma mezze di tanto, un decimo di una persona, un centesimo di una persona, forza ridotta a nulla. Anche perché, com'è che ci togliamo forza? Attraverso la paura, attraverso la ricerca del potere e del piacere. Il piacere qua, guarda caso, sono tutti i piaceri che fanno male al corpo, mangiare troppo, comportarsi nella vita, bere, tutte cose che al corpo non fanno bene, ci rimbecilliscono, ci tolgono consapevolezza. Mentre noi abbiamo a disposizione davanti una vita di gioia, che è l'unica vera emozione, poi alla fine è quella, la gioia, l'amore, la compassione, qualunque cosa accada, mentre quelle che chiamiamo normalmente emozioni, anche la pubblicità ormai se ne è impossessata, vieni nel mondo delle emozioni comprandoti questa automobile, ecco, quel mondo di emozioni lì non sono emozioni, sono programmi, cioè sono programmi che abbiamo ricevuto, che guidano la nostra vita in modo meccanico, quindi noi non siamo noi stessi, siamo agiti da forze che non conosciamo. Non chiamiamo quelle forze emozioni, che non lo so. Compro questo, sono felice, cioè, faccio questo, sono felice. Cioè la felicità che dipende da cosa acquisti, da cosa vieni fuori. Allora, quelli sono programmi che comunque dipende poi alla fine dal potere. Sempre. Che si dipendono dal potere, sono utilizzate la pubblicità per... L'amore è felice nel momento in cui io posseggo l'altra persona. Esatto. È questo. Quindi ci troviamo di fronte a una rivoluzione culturale che... è immensa, che produrrà una rivoluzione nell'economia, nella finanza, ma non possiamo fare un cambiamento nell'economia se non c'è una rivoluzione culturale. Anche, come si dice, ho letto recentemente un articolo sull'Espresso, la riforma Gelmini dell'università, queste cose, di noto filosofo in questo momento di Venezia, come si chiama? Cacciari, ecco. In cui Cacciari dice la riforma Gelmini, vabbè, dice, perché un altro che riforma farebbe? Po' più, po' meno, sono sempre gli stessi punti. Che mi si fa a riformare l'università se non si riforma la società, se non si riformano i fondamenti del vivere sociale? L'università funziona benissimo, la scuola dal punto di vista di ciò che ci serve per mantenere questa società è perfetta. Ai fini di creare dei consumatori passivi che non hanno coscienza, è ottima. Quindi non è vero che non stiamo avendo un'ottima scuola, è ottima ai fini della società che attualmente, per gli scopi che la società si pone, è ottima. Quindi, allora, per creare una buona scuola bisogna creare una buona società, altrimenti non ci si riesce. Per creare una buona società bisogna creare una buona intimità con se stessi, capire chi siamo, altrimenti siamo dei ciechi che ci brancoliamo proprio nel vuoto. Ecco, è una brutta cosa. Sì. No, mi sembra, quando ti sento parlare, mi sembra di sentir parlare Stefano con la stessa tensione a comunicare, a rendere queste cose per tutti, cioè a trovare delle vie di accesso a tutto il mondo, cioè che poi le vie siano Corrado Augias piuttosto che la televisione, piuttosto che lo spettacolo, ma questa voglia di comunicare non più solo semplicemente al singolo, ma a Stefano di cui parli è il direttore. Sì, Stefano Eckel, teatro di Oikitea. Oikitea. È il direttore, diciamo, quello che... Il teatro ha una storia di 25 anni adesso, è da 3 anni, quasi 4 anni ha una sede, che è una sede bellissima. Tutta in legno, tutto in un posto bello, ed è una sede ecologica, cioè, per esempio, diciamo anche nello spettacolo, cioè abbiamo i gabinetti, l'acqua di ristagno dei gabinetti è acqua piovana, cioè c'è un sistema di acqua piovana. Poi ci sono cose che, vabbè, non si possono, non abbiamo i pannelli solari perché costavano troppo, piuttosto bisogna sempre fare delle mediazioni, no? Certo. Però la tensione è giriamo con un'auto a metano e un'auto a gas. Devo aggiungere qualcosa a proposito della comunicazione, no, si sente questa urgenza di comunicare queste cose. Ecco, dall'incontro con Angela Volpini ho acquisito quest'altro modo di pensare, che mi sembra interessante, ulteriore. Abbiamo questa tensione a comunicarci, cioè a comunicare noi stessi, cioè non si tratta di mandare un messaggio rispetto a qualcosa di esterno, ma di comunicare qualcosa che siamo noi. Ecco una vera comunicazione. Io metto in comune chi sono, non metto in comune delle notizie, il resto è scambio commerciale di notizie, ma io comunico quando comunico me stesso. Quando quello che metto fuori, le parole che escono, sono parole di verità, perché sono suoni che traducono ciò che io ho dentro. E questa scissione tra se stessi e la parola, tra se stessi e il lavoro, tra se stessi, l'alienazione di fondo a cui il potere ha sempre ricorso per rendere gli uomini fragili, deboli e impauriti. Allora, persone come Stefan non si fanno più impaurire perché sono in contatto con qualcosa che è potente, che è la propria anima, chiamala come vuoi, che è la propria mission, che è la propria verità interiore. Ecco. Quindi allora qui si vede come tutti i conti tornano. Quando parliamo di amore non intendiamo qualcosa di sdolcinato, l'amore ai cioccolatini, il bacio perugina. Intendiamo qualcosa che è molto forte, qualcosa che ci porta a comunicare noi stessi, a volte addirittura andando fino alla morte, come hanno fatto alcune persone, perché per comunicare sé, certe persone, come Socrate, come Cristo, hanno preferito dato la vita. Certo. Perché era più importante dare se stessi che non rinunciare a se stessi per vivere in modo inautentico. Quindi autenticità, integrità, comunicazione vera si tengono tutti insieme, e l'amore è quello. Tu ami una persona se dai chi sei tu, metti chi sei tu, non una maschera o un qualcos'altro che non sei tu, perché ne hai paura, perché per le condizioni di amabilità mi amerà se, potrò avere se. Ecco, è proprio quando ti esponi, quando hai coraggio, che viene dal cuore, quando hai il cuore aperto, è allora sì che la tua comunicazione è potente. Quindi anche il potere, lì quando parliamo di potere dobbiamo distinguere tra potere, dominio per dominare, e il potere dell'anima. Il potere dell'anima, l'anima ha bisogno di potere, ma è ovvio, per poter esprimere nel mondo ha bisogno del potere. Però capisci che la stessa parola può può veicolare potere, dominio, oppressione, o potere, resurrezione, redenzione, salvezza. Ecco, a questo potere, questo è un potere da avere davvero, ecco. Okay.